Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Il problema di favorire lo sviluppo delle rinnovabili è simile a far crescere una nuova specie in una foresta di alberi ad alto fusto. Bisogna assicurarsi che i germogli delle piantine ricevano abbastanza luce e nutrimenti per poter crescere, questo insomma senza radere al suolo la foresta. Ebbene, nel mercato dell'energia elettrica ciò si traduce in una serie di strumenti tecnici dedicati in particolare alle rinnovabili, il cui scopo è anzitutto permettere che l'energia prodotta dalle rinnovabili venga effettivamente distribuita e sfruttata, e questo nonostante la disponibilità dell'energia rinnovabile sia nella gran parte dei casi imprevedibile e nonostante gli impianti siano piuttosto piccoli e quindi i loro gestori non possano farsi carico di procedure amministrative molto complicate. Infine è necessario retribuire l'investimento per la realizzazione dell'impianto che, come sappiamo, nel caso delle rinnovabili costa un po' di più. Ebbene, gli strumenti individuati a questo fine sono il conto energia, il ritiro dedicato e lo scambio sul posto. A gestirli c'è il GSE, il gestore dei servizi energetici, e quindi del GSE anche il nostro ospite, Gerardo Montanino, direttore operativo appunto del GSE. Buonasera Montanino. Buonasera a voi. Allora, andiamo con ordine, cerchiamo di spiegare che cosa sono e a cosa servono questi tre strumenti. Partiamo dal cosiddetto ritiro dedicato. Il ritiro dedicato è una modalità che aiuta gli operatori a gestire l'energia degli impianti che ne hanno diritto, perché evita loro di dover offrire in borsa tutti i giorni questa energia, ma siglando con noi una convenzione, una tantum, facciamo noi da intermediari tra il produttore e la borsa, pur riconoscendo poi ai produttori esattamente i prezzi ora per ora che avrebbero conseguito qualora avessero fatto le offerte direttamente in borsa. Per cui dal punto di vista amministrativo è molto agevolato. Quindi è un'agevolazione di tipo amministrativo che però è legata anche al fatto appunto che le rinnovabili di per sé non sono molto prevedibili, perché la formazione del prezzo dell'energia elettrica è molto complicata. Ci sono mercati del giorno prima, del giorno dopo, dell'ora prima, non so come dire. Ma se ci fosse la prevedibilità assoluta da parte di queste fonti energetiche rinnovabili, sarebbe altrettanto complicato gestire questa questione del mercato? È comunque complicato perché dovere fare delle offerte in borsa tutti i giorni dell'anno, Natale e Pasqua compresi, certo, costringe gli operatori che lo fanno, e lo facciamo anche noi del GSE, avere del personale che tutti i giorni dedicato, è pronto a fare queste offerte e a vedere i risultati. Quindi in ogni caso, a parte la difficoltà di prevedibilità che c'è per alcune fonti rinnovabili, è comunque più semplice chiedere al gestore di fare da intermediario. Sì. Esattamente, riconoscendo esattamente i prezzi che avrebbero conseguito, e questo lo si può fare per gli impianti da qualunque fonte fino ad una potenza massima di 10 megawatt, mentre invece per gli impianti da fonte rinnovabile non programmabile, tipicamente quelli eolici, fotovoltaici o gli idroelettrici ad acqua affluente, possiamo operare in questo modo qualunque sia la potenza dell'impianto. Quindi per una wind farm di 100 megawatt è possibile che anche loro chiedano a noi di effettuare il ritiro. Perché è un'opzione comunque, insomma, l'operatore sì, può fare come vuole, ma questa è una semplificazione Se che ha a disposizione. Semplificarsi la vita, può chiedere a noi di farlo, non gli costa praticamente niente, è un costo bassissimo. Addirittura noi mese per mese mandiamo un facsimile di fattura a casa con indicate tutte le ore del mese e per ciascuna ora le quantità prodotte e messe in rete e il prezzo che in quell'ora si è stato spuntato nella zona elettrica in cui l'impianto ricade, certo, e facciamo già tutti i conti, per cui per l'operatore basta mettere il timbro della società e la data e difatti si è affrancato dalla fatica di mettere in piedi un sistema complicato di gestione. Certo. Va bene, passiamo invece allo scambio sul posto. Che cos'è e a che cosa serve? Lo scambio sul posto è stato immaginato per le famiglie o le piccole imprese che si realizzano un impianto da fonti rinnovabili, qualunque fonte rinnovabile, fino ad una potenza massima di 200 kW. Ah, ok. O anche impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sempre fino a 200 kW. Mm-hmm. In questo caso il soggetto che ha realizzato l'impianto, intanto se consuma energia nel momento che l'impianto la produce, questa non va nemmeno in rete e la rete non la vede. Se però l'impianto produce più di quanto si consuma. Succede ad esempio in casa, se c'è un impianto fotovoltaico durante il giorno, quando magari a casa non c'è nessuno, certo. Questa energia prodotta in eccesso ai propri bisogni va in rete e poi sostanzialmente può essere riprelevata dalla rete nei momenti in cui c'è bisogno di più energia di quanto l'impianto ne produce. Cioè magari di notte, quando la famiglia è a casa, ma i pannelli fotovoltaici non vanno. Allora, quello che facciamo noi, abbiamo avuto l'incarico dall'autorità di svolgere questa attività, è di fare un conguaglio commerciale di queste forme di energia, nel senso che riconosciamo al produttore non solo il controvalore dell'energia immessa in rete, perché in eccesso rispetto ai propri consumi, valorizzandola con il valore che ora per ora ha l'energia, ma riconosciamo anche, quindi restituiamo, i corrispettivi che in bolletta ha pagato il soggetto responsabile, l'operatore, all'impresa da cui ha comprato l'energia, per la quantità di energia scambiata che noi definiamo, lo definisce la delibera, la più piccola tra l'energia immessa in rete e quella prelevata. Dunque, il tempo praticamente è scaduto, del conto energia non abbiamo parlato, ma in fondo ne abbiamo parlato diverse volte. Diciamo che molto semplicemente possiamo dire il modo in cui viene retribuita l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico con una cifra fissa per ogni kilowattora prodotto. Buonasera Montanino, noi comunque ci risentiamo domani perché parliamo del Piano Nazionale per Energie Rinnovabili che finalmente, insomma, è stato pubblicato. Senz'altro, buonasera a voi. E con questo è davvero tutto, a domani.